Io credo che dal punto di vista dell'equilibrio il ticket democratico sia più forte e più credibile di quanto non appaia un ticket repubblicano, anche per una semplice differenza, che il vicepresidente, si dice nella tradizione americana, ha solo il compito di essere lì nel caso in cui succeda qualcosa al presidente. E penso che dal punto di vista degli americani, pensare di avere come presidente degli Stati Uniti Joe Biden o Sarah Palin abbia un effetto di rassicurazione, in questo caso a favore dei democratici e non a favore dei repubblicani.